Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Occupazione giovanile da record e cresce ancora. Corretto intanto l'emendamento per l'età della pensione, il governo solo un refuso. Intercettazioni e approfondimenti sono sempre opportuni, dice il presidente del Senato Schifani dopo l'appello del Colle. Arriva il caldo e massima allerta per Torino e Venezia, temperatura 40 gradi in tutto il nord. Catania, una lite privata dietro la sparatoria all'università, arrestato il colpevole. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Avete sentito i nostri titoli, tra poco le notizie economiche e l'ampia pagina politica. Ma oggi, venerdì 2 luglio, è giorno di esodo col via delle prime partenze per le vacanze. E proprio in questi giorni è arrivata la prima vera ondata di calore sull'Italia. Già a partire da oggi e per tutto il fine settimana al nord sono previste temperature fino a 40 gradi. Il sistema di previsione delle ondate di calore del Dipartimento della Protezione Civile segnala allerta a Trieste, Milano, Bolzano, Bologna e Brescia. Torino e Venezia fanno registrare il livello massimo di allerta, il livello 3. E allora cominciamo andando a Torino e Bologna. Sotto la mole ci si prepara sperando che davvero duri solo un weekend come previsto. L'ondata di caldo e afa annunciata dalla Protezione Civile in tutta Italia toccherà infatti a Torino livelli massimi, 38 gradi sabato, 40 domenica, livelli che ad Alessandria saranno superati ben 40 gradi domani, mentre domenica si raggiungeranno i 43. In generale in tutto il basso Piemonte la morsa del caldo si farà sentire con più intensità. La Protezione Civile ha fissato al livello 3, il più alto, l'allerta per il capoluogo piemontese. Al momento a Torino la temperatura non è ancora impossibile, 29-30 gradi con l'annuncio di possibili temporali nel pomeriggio. I timori veri sono per domani, quando proprio l'umidità dovrebbe peggiorare la situazione. I torinesi si accingono quindi ad affrontare il weekend puntando sugli accorgimenti abituali. Chi può fuggirà dalla città verso le vicine valli, altrimenti si ricorrerà alle solite attenzioni. Restare in ambienti più freschi sopra soprattutto nelle ore centrali della giornata, bere molti liquidi e stringere i denti. Lunedì si dovrebbe tornare al caldo, diciamo così, normale. Paolo Piacenza, GR24, il sole 24 ore, Torino. Invocata a gran voce dai bolognesi afflitti dalla pioggia fino a pochi giorni fa, l'estate è arrivata portando con sé immediatamente il primo allarme caldo della Protezione Civile. E del resto, con picchi di umidità che sfiorano l'80% e una temperatura che nelle ore centrali della giornata oscilla tra i 35 e i 37 gradi, a Bologna si boccheggia. Per tornare a respirare, secondo le previsioni del tempo, si dovranno aspettare una decina di giorni. I primi acquazzoni, schianta afa, dovrebbero arrivare solo domenica della prossima settimana. Intanto i bolognesi, ma anche tutti gli emiliano-romagnoli che non hanno la fortuna di vivere a due passi dal mare, si arrangiano come possono tentando di rimediare all'afa con tuffi in piscina o piedi a mollo in bacinelle di acqua gelata. E visto che gli esperti sconsigliano l'uso indiscriminato dell'aria condizionata, se ne stanno attaccati al ventilatore che muove aria bollente e appiccicosa, ma almeno la muove. Deborah Dirani, GR24, il sole 24 ore, Bologna. E allora qual è la situazione? Quali potrebbero essere le emergenze? Io saluto Marco Leonardi, Dipartimento Protezione Civile, funzionario responsabile per i rapporti con lo studio Ondate di Calore, che proprio di questo si occupa, in diretta con noi. Buongiorno. Buongiorno. La situazione qual è? Cosa dobbiamo aspettarci? Il nostro sistema di monitoraggio fa previsioni a 72 ore sugli effetti, possibili effetti sulla salute derivanti da questa situazione meteoclimatica. Le previsioni più critiche riguardano le città del nord, delle 27 città del sistema di monitoraggio. Per il 4 luglio è previsto un livello 3 in 7 città e già da domani su Venezia e Torino. Livello 3 significa un perdurare di condizioni sia di temperature elevate ma anche di altre situazioni climatiche che possono avere un particolare effetto sulla salute di una parte della popolazione. 72 ore, voi non fate previsioni più a lungo termine, ma da lunedì dovremmo ricominciare un po' a respirare? Speriamo, però appunto non aspettiamo l'aggiornamento meteo del pomeriggio per fare previsioni di questo tipo. Ecco, tra questa sera e poi domani ci saranno anche molti in coda sulle autostrade, perché è un fine settimana un po' particolare, il primo di luglio, quindi il primo esodo. Tutto pronto o temete qualche situazione difficile? No, penso che ormai insomma il paese sia abituato a reagire a questo tipo di situazioni. Diciamo anche il nostro sistema di allertamento ormai funziona in alcune città già da 6 anni e quindi le città sono generalmente preparate per rispondere a questo tipo di emergenze che effettivamente emergenze non sono, insomma, situazioni particolari che vanno gestite con maggiore attenzione. Consigli per chi parte? No, diciamo il normale buonsenso penso che possa essere sufficiente, insomma. L'importante è prestare appunto attenzione alle persone invece che magari rimangono e che hanno bisogno di assistenza, ma su questo appunto le città si sono attrezzate. Comunque voi come Protezione Civile siete ovviamente già al lavoro. Come sempre. Grazie per essere stato in diretta con noi. Naturalmente anche noi continueremo ad aggiornarvi, ma intanto in attesa dell'esodo c'è anche un'altra polemica ed è quella dei pedaggi. Un forte no contro il pedaggio per l'autopalio Firenze-Siena. Lo gridano amministratori, cittadini, lavoratori, imprenditori, tutti ugualmente vessati da un balzello ritenuto iniquo e illegittimo. Oggi alle 16.30 i comuni del Chianti e della Valdelsa hanno organizzato un presidio all'uscita della 1 alla Certosa, ma intanto sentiamo il sindaco di Tavarnelle Val di Pesa, Sestilio Dirindelli. In pratica si compie un'ingiustizia macroscopica. Non sono riusciti a mettere il pedaggio sul raccordo autostradale Firenze-Siena, allora se la sono cavata aumentando quello che è il pedaggio in entrata e uscita al casello di Certosa. Pedaggio che secondo gli amministratori servirà solo a far cazzo e non a migliorare la viabilità, come spiega il sindaco di San Casciano Val di Pesa, Massimiliano Pescini. Questi soldi non saranno utilizzati per rimettere in sicurezza quella strada, ma serviranno a compensare quello che il governo dà in meno all'ANAS per tutta la rete autostradale. Quindi noi, i nostri cittadini, i turisti, i lavoratori, le imprese, 2 euro le imprese, quindi sarà veramente un salasso. Paradossale che chi esce a Certosa, anche se non in bocca all'autopalio, ma ad esempio entra a Firenze o si dirige in qualche frazione vicina, paga ugualmente il pedaggio che non riguarda invece chi entra sull'autopalio senza percorrere l'autostrada. Ubaldo Cianciulli, GR24, Il Sole 24 Ore, Firenze. E poco fa sul fronte dell'altra polemica, quella per il pagamento sul raccordo anulare di Roma, i presidenti delle province di Roma e Rieti hanno annunciato ricorso al TAR. Veniamo ora alle altre notizie di oggi, a cominciare dai dati sulla disoccupazione. A preoccupare sono i giovani. Non è un paese per giovani, si potrebbe dire, parafrasando il titolo di un celebre film di qualche tempo fa. Così almeno stando ai dati Istat sul tasso di disoccupazione. Quello giovanile, che riguarda le persone che hanno fra i 15 e i 24 anni, è salito al 29,2% a maggio, dal 29,1% di aprile. Si tratta, dicono all'Istituto di Statistica, del dato più elevato dall'inizio delle serie storiche, ovvero dal 2004. Il tasso generale di disoccupazione a maggio è invece stabile all'8,7%, fermo per il terzo mese consecutivo. L'aumento rispetto invece a maggio 2009 è di 1,2 punti percentuali. Assieme a quello giovanile sale il tasso di disoccupazione femminile, che sempre a maggio e sulla base della stima provvisoria risulta pari al 10,1%, mentre quello maschile si attesta al 7,7%. Sul fronte dei conti pubblici, il rapporto fra deficit e prodotto interno lordo, fa sapere l'Istat, nel primo trimestre dell'anno è migliorato di 0,5 punti rispetto allo stesso periodo 2009. Da gennaio a marzo si è attestato all'8,7, mentre nello stesso periodo dell'anno precedente era al 9,2. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è intanto marcia indietro sullo stop ai 40 anni di contributi per accedere alla pensione. Il relatore di maggioranza alla manovra, Antonio Azzolini, del PDL, ha presentato questa mattina in Commissione Bilancio al Senato un emendamento correttivo. Solo un errore, ha ribadito il ministro del Welfare Maurizio Sacconi, e da poco ha terminato di parlare davanti alla platea di Coldiretti il ministro dell'Economia Giulio Tremonti, Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, è un po' come essere dentro un videogame, arriva un mostro, lo batti, sei lì che ti rilassi e ne arriva un altro più grande del primo. Così della crisi ha parlato un applauditissimo Tremonti qui all'Assemblea degli Agricoltori, la crisi dunque come un videogioco che continua con forme diverse, speriamo, ha detto il Ministro dell'Economia, meno drammatiche di quelle che abbiamo visto finora. Non è la fine del mondo, ma di un mondo in cui ci si era illusi che la ricchezza poteva prodursi per magia dalla finanza e non dal lavoro, un mondo che per effetto della globalizzazione vive lo scontro tra forze opposte, quelli appunto del del lavoro e della finanza. Parlando poi del settore agricolo in particolare, ha detto, ha sofferto, ma ha tenuto meglio degli altri, ha tenuto anche nel mezzogiorno. Il ministro dell'economia sul sud ha però puntato il dito contro la cialtroneria e l'irresponsabilità di chi prende i soldi e non li spende. Sentiamolo. E siccome i soldi per il mezzogiorno saranno di più e non di meno nei prossimi anni, non si può continuare con questa gente che sa protestare e non sa fare il servizio pubblico per i cittadini. Tremonti ha infine ricordato come del programma di fondi comunitari 2007-2013, che prevedeva 44 miliardi, ne sono stati spesi solo 3,6. Ed ormai è tutta, a voi la linea. Grazie ad Alessandro Schepisi. E questa mattina incontro tra il Presidente del Senato Renato Schifani ed una delegazione della Conferenza delle Regioni per fare il punto sulle modifiche richieste dagli enti locali alla manovra. Maria Chiara Grandis. Sì, buongiorno. Di fronte alla delegazione dei governatori delle regioni ricevuti al Senato, il Presidente Schifani si è impegnato a garantire un ampio dibattito in commissione e in aula sulla manovra economica. A Palazzo Madama le regioni, dopo la seduta straordinaria di ieri, hanno nuovamente manifestato la loro preoccupazione per un provvedimento che ritengono iniquo. I governatori denunciano che agli enti locali si taglia l'80% dei servizi. È un allarme che Schifani promette di trasmettere alla Presidenza del Consiglio, mentre l'incontro con il Premier Berlusconi, chiesto nei giorni scorsi proprio dei governatori, ancora non è stato fissato. Il presidente della Conferenza delle Regioni Errani, così come il governatore della Lombardia, hanno ribadito la disponibilità di enti locali a raggiungere l'accordo sulla manovra, ma solo quando ciascun livello istituzionale farà la sua parte, in altre parole, quando il provvedimento sarà modificato. Non vogliamo dover tagliare la testa ai cittadini, dice Roberto Formigoni. La presidente del Lazio Polverini ha voluto inoltre trasmettere al presidente del Senato le preoccupazioni delle regioni più in difficoltà, come quelle che hanno piani di rientro sanitari. E proprio per Lazio, Calabria, Campania e Molise, l'Agenzia delle Entrate rende noto che la maggiorazione dell'aliquota IRAP annunciata ieri, un aumento dello 0,15%, avrà effetto sul conto di novembre. L'aumento dell'addizionale IRPEF invece più 0,30% cadrà sul 2011. E da Palazzo Madama metto linea a voi. Grazie, siamo alla cronaca. Svolta nella notte a Catania, la squadra mobile ha arrestato Andrea Rizzotti, 54 anni, incensurato, l'uomo che giovedì ha seminato il panico in città ferendo in modo grave una studentessa. È un uomo, Maurizio Gravino, presunto mafioso, vero obiettivo del sicario. L'agguato non è legato però a Cosa Nostra, ma a vicende personali tra Gravino e il killer. Il pregiudicato ferito era fuggito con una nipote dell'uomo che gli ha sparato per vendicare l'onore familiare. La donna è infatti sposata. Il procuratore Vincenzo D'Agata al microfono di Letizia Carrara. Devo dire che nella tragicità dell'episodio l'unica nota positiva è rappresentata dalla manifestazione, dall'esempio di grande civiltà che è stata data da questo ragazzo, che ha dato una testimonianza puntuale e precisa, che è stato poi un avvio sicuro e certo per addentrarsi in un percorso investigativo che ha portato al risultato positivo della individuazione dell'autore del fatto. Questo fatto specifico, che attiene appunto alle decisioni estemporanee legate a fatti privati, sono di quelle manifestazioni che sono difficilmente prevedibili e quindi prevenibili. In un certo senso sono di quelle manifestazioni che ci colgono più di sorpresa di quello che è l'attività dei mafiosi, perché l'attività dei mafiosi è più controllabile rispetto a queste decisioni, a queste iniziative assolutamente individuali ed estemporanee. È stato assegnato ieri sera a Roma il premio Strega, uno dei premi letterari più prestigiosi. Come annunciato, è stato un testa a testa fra Silvia Avallone e Antonio Pennacchi, o meglio fra Rizzoli e Mondadori, perché si sa, lo Strega è il premio condizionato dalle case editrici. L'anno scorso lo scarto era stato di un solo voto, quest'anno di 4. 133 per Pennacchi con Canale Mussolini e 129 per la Avallone, autrice di Acciaio. E così il gruppo Mondadori porta a casa il quarto Strega consecutivo, e questo, ci scommettiamo, riaprirà le polemiche per la verità mai sopite. Delusione per Paolo Sorrentino con Hanno tutti ragione Feltrinelli. Fino a qualche giorno fa era uno dei favoriti insieme alla Avallone. Ieri ha conquistato solo 59 voti. Voti dati, lo ricordiamo, dai cosiddetti 400 amici della domenica, personaggi di spicco della cultura italiana, ai quali quest'anno sono stati aggiunti 30 giurati popolari. Ma veniamo al romanzo vincitore. Pennacchi racconta la saga di una delle 3.000 famiglie del nord che durante il fascismo vennero trasferite nelle paludi pontine appena bonificate. Il libro è fra l'altro fra i 5 finalisti al campiello. In questo caso però nessun testa a testa con la Avallone. Lei si è già aggiudicata il campiello opera prima. Alessandra Tedesco, Gera 24, Il Sole 24 Ore. 16:18 minuti, torniamo in studio con le notizie di oggi. Occupazione giovanile da record e cresce ancora, corretto intanto l'emendamento per l'età della pensione, il governo solo un refuso. Intercettazioni e approfondimenti sono sempre opportuni, dice il presidente del Senato Schifani dopo l'appello del Colle. Arriva il caldo e massima allerta per Torino e Venezia, temperatura 40 gradi in tutto il nord nel fine settimana. Catania, una lite privata dietro la sparatoria all'università, arrestato il colpevole. E riprendiamo dal disegno di legge sulle intercettazioni. Il giorno dopo le mobilitazioni di piazza e le parole del Presidente della Repubblica Napolitano, interviene il Presidente del Senato, Renato Schifani. Ma io mi auguro sempre che ogni tensione si allenti, facendo in modo che i disegni di legge abbiano tempi e spazi di approfondimento all'interno della Camera dove si discutono. Poi il Presidente Napolitano non si commenta, si ascolta. Il presidente Napolitano, nelle sue dichiarazioni ieri da Malta, aveva centrato l'attenzione sui punti del disegno di legge su cui è rimasto inascoltato e che potrebbero portare il Quirinale nelle valutazioni finali a non firmare la legge. Quali sono dunque questi punti? Sentiamo. Riservarsi la valutazione finale nell'ambito delle prerogative, tradotto in soldoni, vuol dire se quei punti non vengono modificati, il Colle non firma la legge. I rilievi che muove il Presidente della Repubblica a quei punti, di cui ha parlato Napolitano nella cartolina inviata da Malta nel giorno delle mobilitazioni, sono sostanzialmente 5. Un punto critico riguarda la disciplina contro ignoti, procedimento eliminato dal Senato che il Colle vorrebbe ripristinare. In secondo luogo, le proroghe troppo brevi al termine di 75 giorni stabilito per le intercettazioni. Proroghe di sole 72 ore che creano problemi organizzativi al tribunale che deve organizzare. Il terzo punto riguarda i reati spia, come estorsione ed usura, reati che spesso conducono all'associazione mafiosa e per cui dal Quirinale si chiede una corsia preferenziale per le intercettazioni. Altro punto controverso riguarda le sanzioni agli editori, che incidono sui rapporti con i direttori e con le redazioni, oltre ad essere poco compatibili con la libertà di informazione. Infine, consentire l'intercettazione diretta o indiretta, vale a dire con una cimice, di un parlamentare non solo nei luoghi di sua proprietà, ma anche in luoghi pubblici. Stefano Totoro, GR24, Il Sole 24 Ore. Scritte offensive a sfondo sessuale rivolte al Papa in italiano e in alcune lingue straniere sono state scoperte questa mattina davanti alla porta della Scala Santa adiacente a Piazza San Giovanni a Roma. L'atto di vandalismo è avvenuto la notte scorsa e la gendarmeria, competente del luogo sacro perché extraterritoriale, ha avvisato il Campidoglio. E un duro attacco al pontefice arriva oggi dal New York Times. Riparte dagli USA l'attacco a Benedetto XVI. Alla fine della settimana, che ha visto la decisione della Corte Suprema, che ha di fatto ammesso la processabilità della Santa Sede per un caso di molestie sessuali del clero, il New York Times torna oggi sui casi di pedofilia. Con un articolo in prima pagina, il quotidiano newyorkese esamina il ruolo di Ratzinger prima e dopo che diventasse Papa. Il cardinale, dice il quotidiano, quando era prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, era la figura che avrebbe potuto prendere misure decisive negli anni 90 per evitare che lo scandalo della pedofilia si diffondesse come una metastasi paese dopo paese, crescendo in proporzioni tali che ora minaccia di consumare il papato. Ma, aggiunge il quotidiano, è oggi chiaro che Ratzinger era parte di una cultura della non responsabilità, della rimozione, di cavillosi rinvii e di esplicito ostruzionismo. Il New York Times già lo scorso marzo si era lungamente interessato dei casi di pedofilia e delle presunte responsabilità di Ratzinger, rivelando molti aspetti di inchieste sia negli Stati Uniti che a Monaco di Baviera. Carlo Marroni, GR24, Il Sole 24 Ore, Città del Vaticano. L'Ndrangheta in Liguria si scioglie per la prima volta nella regione, un consiglio comunale. Nell'informativa inviata al prefetto di Imperia, i carabinieri rappresentano una situazione di grave allarme. Alcune famiglie dell'Ndrangheta si sono infiltrate nel comune di Bordighera, condizionando l'attività amministrativa della giunta. Scrivono i militari al termine di una lunga indagine che nelle scorse settimane aveva portato all'arresto di 8 persone. Di qui la possibilità, sottoposta al vaglio del prefetto, che il consiglio comunale venga sciolto come prevede la legge antimafia. In Liguria non era mai accaduto e ora succede a Bordighera, spicchio esclusivo della riviera di Ponente tra Sanremo e la Costa Azzurra, dove da tempo le cosche calabresi fanno affari riciclando fiumi di denaro. Le indagini dei carabinieri hanno ricostruito le pressioni esercitate su alcuni assessori del comune e vari episodi di intimidazione legati alla concessione delle autorizzazioni per l'apertura di attività commerciali e all'assegnazione degli appalti nell'edilizia. Un amministratore minacciato ha dichiarato agli inquirenti di dormire con la pistola sotto il cuscino. Andrea Ferro, GR24 Sole 24 Ore, Genova. al via i saldi. Cominciamo da Napoli. Sono partiti oggi i primi saldi estivi. Le città capofila della stagione degli sconti sono Napoli e Potenza. Non si preannunciano neanche quest'anno affari d'oro per i commercianti. In particolar modo in Campania, a Napoli e in provincia, dove la crisi economica si è fatta sentire più di altre zone, soprattutto la crisi dell'occupazione. Ma i commercianti non disperano. Ci aspettiamo buone vendite, anche comunque ricordando passate esperienze degli altri anni. Con i saldi penso non saranno comunque come l'anno scorso, spero bene per tutti quanti, che i cittadini possano riprendere un attimo anche il loro shopping. Me lo auguro, certamente noi ce lo auguriamo tutti, noi stiamo già in saldi da 30-40% già da giugno. Mi auguro, però noto che la gente, i soldi sono pochi. E a Pomigliano d'Arco, città dove la crisi economica e quella industriale con la Fiat in cassa integrazione da quasi 2 anni si sente molto di più, ecco cosa dice il presidente dell'ASCOM Aldo Andrisani. Purtroppo che siamo molto condizionati dal lavoro della Fiat e per i commercianti di Pomigliano d'Arco sono molto sentiti i saldi, arrivano quasi come un sospiro pila di sollievo. Paolo Picone, GR24, Al Sole 24 Ore, Napoli. Sono 13 milioni e mezzo gli italiani appassionati dell'arte in generale, ma si dimezza l'interesse per quella contemporanea, colpa della crisi economica. Così dice il rapporto dell'Osservatorio Terna sull'arte contemporanea. Lo ha condotto l'Istituto di Renato Mannheimer, che ha intervistato Adriana Fracchia. I risultati dimostrano che esiste tra gli italiani un interesse per l'arte in generale, mostra che esiste in una certa percentuale molto minoritaria di italiani anche un interesse per l'arte contemporanea, e quindi il fenomeno dell'arte contemporanea è un fenomeno che è a metà tra elite e massa, nel senso che interessa tanta gente. La gran parte pensa che l'arte contemporanea abbia dei propri canoni stilistici e che quindi anche in futuro verrà riconosciuta come arte. C'è un po' di diminuzione rispetto all'anno scorso, quando l'avevamo fatto, di interessati all'arte contemporanea per via della crisi, ma si tratta di un fenomeno certo passeggero. Ecco, quindi insomma l'arte contemporanea va piuttosto bene. Sì, l'arte contemporanea tira. Sempre di più c'è gente interessata, sta cominciando a diventare un fenomeno più ampio. Oggi giornata di grande calcio a Sudafrica 2010, alle 16 a Port Elizabeth la sfida tra Brasile e Olanda, alle 20:30 a Johannesburg duello tra Ghana e Uruguay. Le vincenti si affronteranno in semifinale martedì 6 luglio a Città del Capo, ma intanto fanno discutere le designazioni arbitrali per le sfide decisive del torneo. Il commento di Carlo Genta. La temperatura sale, anche quella di Leo Messi per la verità, che ieri aveva qualche linea di febbre ed è stato messo a letto in fretta e furia con le coperte fin sotto gli occhi. Schweinsteiger aveva già acceso per tempo 1000 fuochi intorno alla partita di sabato, parlando di argentini attaccabrighe e ricevendone ieri una maestosa alzata di spalle da Maradona. Non ho tempo da dedicare a lui, dice Diego. Ma la temperatura va alle stelle anche per questioni arbitrali. Qui basta un fischio di traverso per far saltare il mondo con l'aria che tira. E dato che Rosetti e la Rionda sono stati spediti a casa insieme a Busacca, ecco la carica degli underdog, arbitri semi sconosciuti e un po' inesperti. Per Germania e Argentina ci sarà quell'Irmatov uzbeko contro cui Dieghito si era già scagliato dopo la partita con la Grecia. L'Uruguay stasera avrà il portoghese Bancherencia per il veto della Celeste all'inglese Webb, timore di ritorsioni dopo i casini di Larionda. Un giapponese oggi pomeriggio per Brasile e Olanda si chiama Nishimura. Per Paraguay e Spagna ci sarà Batres, quello del rigorino salva Italia contro la Nuova Zelanda. A noi non è bastato, a lui evidentemente sì. Carlo Genta, GR24, Al Sole 24 Ore. L'appuntamento naturalmente è con A Tempo di Sport. Noi invece ci fermiamo qui, vi lascio con Italia in controluce. In regia Paolo Corleoni, ancora un saluto da Anna Migliorati. GR24 torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.